noi speriamo che dietro quello striscione, quello slogan che noi non paghiamo, si possano convergere tante forze dal mondo del lavoro, dal mondo dell'ambientalismo, dal mondo del transfemminismo, perché una cosa per noi è certa, che queste lotte comunicano, stanno insieme, hanno degli obiettivi comuni, combattono una stessa battaglia e dall'altra parte della barricata invece c'è un nemico comune che sono le multinazionali. L'escalation della guerra la sta portando avanti e sta perpetrando i morti e nuove guerre e la possibilità anche dell'escalation nucleare, e quindi pensiamo che partendo da qua, partendo dai territori, partendo dalle possibilità che possiamo mettere in campo, non ultima il 22 ottobre a Bologna la manifestazione regionale insieme ai lavoratori e lavoratrici della GKN, insieme a tutti i mondi ambientalisti cittadini, insieme ad altre realtà e associazioni che hanno aderito, può essere un primo momento per aprire questo autunno che speriamo si basi sulle lotte, sulle rivendicazioni e su nuove possibilità per tante che oggi stanno subendo gli aumenti.